posso permettere una cosa, che ringrazio anche adesso le popolazioni di Fanano che sono state quelle che si hanno sostenuto e che hanno dato la possibilità a noi di portare a fine il nostro intento. E, tornando a questo discorso qua, era una vita che non l'auguro a nessuno. Non potevi né ammalarti, non potevi cambiarti, e non c'era nessuna possibilità di far qualcosa, di migliorare certe cose perché non era nell'impossibilità. Pioveva, ti bagnavi, ti dovevi asciugare i panni da dosso. Dormire se trovavi un casello, che allora i caselli sappiamo cosa erano, dove c'erano state le pecore, dove c'erano. Riuscivamo a stare dentro il casello, con tutte le guardie fuori perché c'era sempre il pericolo che ci fossero delle cose tedesche. E mangiare, praticamente mangiare, quanto la gente passava in un certo punto, chiedevamo, prima chiedevamo se avevano la possibilità, e tanti sono stati disponibili, ci hanno dato quello che hanno potuto nel modo logico, nel modo più pratico. E dobbiamo sempre ringraziare quella gente lì. C'è stata una piccolissima parte che si vedeva e si diceva che noi gli portavamo via la roba. Logicamente, quando arrivavamo in certi periodi che la fama ci attanagliava praticamente lo stomaco, non sapevamo come fare, arrivavamo dentro dei casolari che c'era qualcosa che poteva servirci senza danneggiare troppo loro, si prendeva. Avevamo poi anche. Si requisiva anche delle volte dei vitelli, così, delle mucche per macellarle, però avevamo dei buoni che noi firmavamo, dei buoni che dopo sono stati regolarmente saldati dopo la guerra. Però nel primo momento ci prendevamo, loro non, si era creato un concetto sbagliato di noi perché ci prendevamo la mucca. Dico, non pensavano che noi facevamo anche praticamente per il bene suo. Comunque, c'erano certe persone che il buono non lo volevano, perché avevano anche una parte di ragione, perché era compromettente. Perché se i tedeschi o i fascisti ritrovavano che avevano un buono in casa, dicevano che avevano collaborato con noi e li passavano per le armi. Allora non lo volevano. Però è successo che dopo la guerra, dopo la liberazione, sono venuti da noi e ci hanno detto: vi ricordate questo, questo? Sì. C'è possibilità di avere un buono e gli abbiamo fatto il buono e sono stati reintegrati tutti.